noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pala col velo, Higuain, la carica dei 101 per Higuain, 2-0 Juve. Pennella come un Raffaello, pennella come un Giotto, entra, vai e chiudila, e spalanca felice. Andiamo a Valencia! Desmondovic c'è e andiamo a Valencia! Andiamo a Valencia! A mangiare la paella pitturata di rosso! Dovic è, doppietta Ducati, Dovizioso Lorenzo, davanti a Zarco! Milinkovic mette in porta Immobile, che non perdona, è già 2-0 dopo 13 minuti e sono 14 in campionato. Callejon che mette la palla tesa, palla prolungata al Biol, rigioca dentro, Mertens da due passi, 200 partite con il Napoli, 80 gol, 3-1. Lewis Hamilton vince il mondiale di Formula 1 2017 per la quarta volta, vince il mondiale, lo ricordiamo ancora una volta come Alain Prost, come Sebastian Vettel. Questo è successo nel weekend, come cantava il poeta, era già tutto previsto, cioè Hamilton mondiale era previsto, è stato inchiostrato ieri sera. Non era forse così previsto il non mondiale di Marquez, però Dovizioso ha tenuto in vita il campionato del mondo fino all'ultima tappa, questo per quanto riguarda il motore ne parleremo dopo. Per il calcio, che volete che vi dica ragazzi? Le prime cinque vincono, marciano a rotta di collo, la proiezione ortogonale, mi piace dire così anche se magari non è corretto, del campionato dice che se continuano così il Napoli chiuderà il campionato a 107 punti, l'Inter a 100 se vince stasera e la Juventus e la Lazio 97, insomma velocità folli, altro che Formula 1 e moto mondiale. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Benissimo, anche perché c'è il mio amico Luigi Garlando, Gigi Garlando, cioè il professore del calcio in rosa sulla Gazzetta dello Sport. Buongiorno Gigi, buongiorno. Giornalista, scrittore, status simbolo, sex simbolo, sex simbolo. Che status simbolo, tutto. Ti va Gigi? Uh-huh. Sì, sì, va benissimo. Giornalista più scrittore o più sex simbolo? Più sex symbol, esatto. Perdonalo, Gigi. Sì, sì, no, ma... perdonalo. Non, come Jessica Rabbit lo dipingono così, Pardo. Ragazzi, allora, questa giornata di campionato, io dico, era già tutto previsto. Se la guardi da una prospettiva, ok, campionato stellare per le prime cinque, se la guardi da un'altra angolazione, beh, ma che lo giochiamo a fare, Gigi? Sì, è un campionato, insomma, la forbice si allarga sempre più, anche in modo imbarazzante, no? Insomma, siamo in un mondo in cui i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, no? Ci sono 8 super miliardari che hanno la ricchezza di 3,6 miliardi di persone. E qua sta succedendo un po' la stessa roba, no? Si staccano sempre di più quelli davanti e restano sempre più indietro quelli più indietro. E dobbiamo prenderne atto anche poi magari in futuro per vedere un pochino la riforma del campionato. Però il fatto che comunque in testa le distanze siano così accorciate è una garanzia comunque di bellezza, di lotta, per cui insomma non lamentiamoci. No, ma chi si lamenta? Anzi, ne godiamo, no Bardo? Sì, sì e no, nel senso che secondo me, nel senso che secondo me è molto bello il campionato equilibrato con le cinque sorelle. È bello, molto bello. Ma sentire parlare di sorelle fa venire la pelle d'oca, posso dire. Come ho detto ieri, mi rimanda ai tempi in cui il calcio si faceva di steroidi, facciamo così, eh? No, vabbè, No, no, invece vabbè, le cinque spasimanti, le cinque duellanti. E questo è molto bello. È meno bello, secondo me, vedere delle partite che sono chiuse al ventesimo. Questo sì. Cioè, certo. Secondo me sono proprio due facce della stessa medaglia. Sta diventando un campionato che assomiglia agli storici campionati portoghesi, scozzesi, con cinque squadre. Bello, è fantastico, per carità. Da quel punto di vista non c'è dubbio, in questo momento lo scudetto lo possono sognare i tifosi del Napoli, dell'Inter, della Juve, della Roma e della Lazio, e tutti hanno pienamente diritto a sognarlo. Però è vero pure che tante partite sono noiose. Ragazzi, vi propongo un gioco che sta sulle voci, come mi ha suggerito Giorgio De Luca, il nostro autore, Marco Ferronato in regia, chapeau. Allora, vi faccio sentire qualche battuta, qualche dichiarazione, come questa di Aurelio De Laurentiis, che torna a fare il Masaniello. Lo scudetto lo vinceremo prima o poi, speriamo più prima che poi, ma poi quando l'hai vinto devi voltare pagina e vincerlo sempre con un'organizzazione come può essere quella che dà fastidio, perché il Sud ha sempre dato fastidio al Nord. E allora, sai, noi adesso abbiamo cominciato a mettere la VAR, ma chissà cosa si potrebbero inventare per falcidiarci comunque o crearci degli ostacoli, vista la nostra capacità forse di esprimere un bel gioco che non è così facile da raggiungere. Capito, ragazzi, poi il Napoli ha rettificato, Aurelio De Laurentiis non ce l'aveva con la VAR, d'altra parte sarebbe assurdo pensarlo, dato che dovrebbe trattarsi di strumento di garanzia, così pensano alcuni, però cercheranno di fermarci. Bah, mi sembra un po' dietrologia, Luigi. Ma sì, senz'altro, prendiamola, diciamo, nell'accezione migliore, cioè che ha voluto dare uno stimolo in più ai suoi giocatori, per dire, insomma, la vecchia logica, no? Del rumore degli amici. Dei nemici. Sentivo l'altra sera proprio Vialli che diceva ad Allegri: voi dovete vincere lo scudetto nell'anno della VAR, proprio perché sennò diranno, ecco, in questo anno in cui c'è uno strumento di giustizia in più, la Juve, guarda caso, non ha perso. Ecco, un po' la logica è lo stesso, no? Di trovare delle motivazioni in più. Se invece prendiamo alle lettere, ovviamente, le cose che ha detto sono inaccettabili. Nessuno ha mai impedito al Napoli di vincere e di essere bello come è adesso. Tante volte invece il Napoli si è fatto male da solo, proprio con queste scuse, da Mazzarri, ma poi dallo stesso Sarri, parlando di nazionale, di calendari, di campi brutti, e quindi trovando degli alibi che poi arrivano ai giocatori. Ecco, questo non deve succedere. Se invece le parole diventano uno stimolo in più, ben venga, no? Pier, che ne pensi? No, io penso che anche io non ho capito le parole di Laurenti, se non... Beh, sono un po' maradoniane, no? Ma sì, se non appunto dal punto di vista di chi vuole compattare sempre di più tifoseria, squadra e magari non lo so, prendere su di sé un po' di attenzione, non lo so, penso che siano parole tattiche, perché francamente... Beh, in altro senso non le intendo, sono parole tattiche. Liscio, il Napoli non ha nulla, correggetemi se sbaglio, di cui lamentarsi, e nemmeno nulla di cui dover dire scusa, perché insomma tutto sta filando bene. Semmai, ecco, delle partite chiave, degli scontri diretti, l'unica partita in cui c'è stato un episodio che è sfuggito al VAR era il famoso rigore del possibile 2-0 di Roma-Inter. Mi pare che la Roma comunque anche su quello sia andata molto avanti, quindi il VAR credo che sia, l'abbiamo detto mille volte, una garanzia ulteriore per tutti, nel senso che comunque l'errore ci potrà stare, ma sono molto, molto ridotti gli errori. E su discorsi sociologici nord-sud direi che possiamo lasciarli da parte. Il Napoli è fortissimo e quindi non vedo il motivo di queste dichiarazioni, se non il fatto magari di essere il famoso mind game, come dici tu, no? Che magari compatta l'ambiente, insomma Mourinho era un maestro di queste cose, quindi la derubricherei a una cosa di questo tipo, non vedo niente di oggettivo. Allora, traffico, torniamo subito. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta... Tu tutti convocati all'800240024 come sempre. Pierluigi Pardo e Gigi Garlando, Gazzetta dello Sport, come sapete, con noi. Allora, primo tema De Laurentiis esaurito con una sorta di 0-0, come intendere queste parole su un ipotetico complotto. Hanno fatto chiacchierare le parole di Montella sulla storia, non stavolta del ristorante da 100 euro di Conte, ma sui giocatori da 100 milioni. Ti rispondo subito, no, ma i giocatori che un centravanti, no, voglio, io preferisco questa squadra qua perché sono forte, perché cresceranno, ma i giocatori da 100 milioni vogliono giocare la Champions League, vogliono giocare la Champions League per vincerla, non vengono a giocare i giocatori che sono top player vogliono giocare Champions League con le squadre forti che la possono vincere. Non mi sembrano così fondate queste parole, Luigi. Ma no, insomma, io credo che invece tutto sommato poi abbia anche invece abbastanza ragione, nel senso che non era facile, no, magari convincere un giocatore a venire al Milan dopo le stagioni disgraziate che si è lasciato alle spalle l'ultimo Milan, l'ultimo Berlusconi. E quindi il discorso del mercato è molto delicato, no? Oggi io l'ho sempre detto da prima ora, ma oggi è facile anche dirlo, era meglio comprare di meno e comprare meglio, e quindi comprare magari la metà ma qualche campione. Ma come dice Montella, secondo me invece ha ragione, cioè non è facile convincere poi, non so, Morata. Loro ci hanno provato, ci hanno parlato, Morata ha detto no grazie, io vado da Conte. E allora anche questo mercato bulimico che oggi è tra le cause, no, e tra le colpe addebitate alla nuova proprietà, è stato in qualche modo per me necessario. Cioè tu devi fare un mercato abbagliante, far vedere che hai un grande progetto, spendere anche tanto, e allora il campione dice, beh cavoli, allora lì sta nascendo qualcosa, allora forse vado. Ecco, questo mercato bulimico, che è la colpa anche di questa rosa attrezzata secondo me male, è stato in qualche modo una necessità. Se adesso insomma il Milan riuscisse a arrivare, come mi sembra difficile, però in Champions, allora il prossimo estate hai un nuovo appeal, hai una struttura di gioco, un'identità che sta crescendo, la rifinisci magari mandando via la metà di quelli che hai comprato, comprando due o tre campioni veri, e cominci a fare una squadra. Per me un po' la logica è questa. Champions League mi però pare difficile, Pier. No, posso dire, dimmi. È vero, ma c'è un discorso di opportunità. Ne parlavamo anche ieri, insomma queste parole qui non è che proprio aiutino moltissimo secondo me. No. A me non sono piaciute, lo dico sinceramente, sono parole ovviamente che vengono dal cuore e che hanno, sono d'accordo con Luis, una loro verità, nel senso che tutte le cose che hai detto sono giuste, però insomma sono parole che arrivano dopo una sconfitta in un momento di difficoltà, che secondo me rischiano di dare di non essere molto apprezzate all'interno dello spogliatoio. Questa è la, è il mio dubbio. Sì, la cascata, hai ragione, la cascata poi di un giocatore che si sente dire allora io non sono un campione, sono arriva, può essere negativa, però ecco, io ci vedevo un po' quella logica lì sotto. Ha un po' perso la bussola Montella anche quando dice abbiamo giocato alla pari con la Juventus, Pier. Che ti devo dire, ognuno se prova a difendersi, nel calcio poi alla fine contano i risultati. Anche il più grande comunicatore della storia del calcio, non so, forse Mourinho, poi alla fine se i risultati non arrivano va in difficoltà. Sicuramente non è un Montella sereno, all'inizio gli veniva rimproverato di sorridere troppo di fronte alle sconfitte, adesso sorride un po' meno, e però sembra proprio, se sei buono ti tirano le pietre, se sei cattivo ti tirano le pietre. Il problema è in campo, il problema è in campo ed è una squadra. Io sono d'accordo, credo che ci sia stata, e mi prendo anch'io la mia parte di colpa, un po' di sopravvalutazione mediatica di questa campagna acquisti. Cioè sicuramente c'è stata molta molto euforia, molto spettacolare, no, dal non punto c'è di vista proprio anche della concatenazione degli acquisti, gli acquisti che arrivano subito, la vicenda Donnarumma così complicata con quel colpo di scena, Bonucci, ragazzi, Bonucci è... Beh, Bonucci, Biglia, li conosciamo, non sono dei sconosciuti. Tu sei andato a prendere quello che viene considerato il miglior difensore d'Italia dalla squadra che ha vinto gli ultimi sei campionati con una mossa clamorosa, Biglia lo volevano tutti, Donnarumma sembrava se ne fosse andato, invece hai fatto delle cose clamorose dal punto di vista dello spettacolo. Ecco, se fosse un film, la campagna acquisti del Milan sarebbe stato veramente un colossal. Poi alla fine vai a vedere, probabilmente certi investimenti sono esagerati per il livello dei giocatori. Certo, però, fatto sta che quella zona Champions è lontanissima. Premesso che è la sfida più difficile, più complicata della carriera per Montella, il bilancio è negativo e bisogna essere onesti, sennò poi dopo, siccome Montella è una bravissima persona, un bravo allenatore, ci sta simpatico, si rischia di essere troppo morti, le cose non stanno andando, dai, è inutile girarci attorno. Allora, magari miglioreranno. Non so quando e non so se sia ancora in tempo Montella, perché insomma, abbiamo detto prima, al ritmo con il quale sempre in tempo. No, ma non so se sia ancora in tempo in termini di classifica, al ritmo con il quale viaggiano le prime 5 della classe, 12 punti di stacco sono un sacco e non so se siano recuperabili. Ultimo tema è questo: l'Inter gioca stasera a Verona con il Verona e Spalletti parla così. Mi sono fatto stampare la classifica prima, per cui ce l'ho sott'occhio. Destinazione vincere sempre. Non abbiamo tempo per rilassarci e ora c'è da fare delle scelte ben precise, perché poi viene il complicato, viene il complesso, insomma, mantenere il passo di queste squadre qui. Bisogna pensare rapido ma profondo, perché queste squadre qui arriveranno fino in fondo. Quasi una banalità, bisogna vincere sempre, il tempo non c'è. E, Gigi Garlando, Spalletti ha fatto quello che forse avrebbe dovuto fare Montella. Ha disegnato la sua squadra, ha scelto 11, 12, 13 giocatori, non di più, turnover un'altra volta, e su questo disegno molto semplice ha disegnato un Inter che regge, con dei giocatori che l'anno scorso sembravano quelli del Milan di adesso, cioè una banda di brocchi, giusto? Sì, sì, noi l'anno scorso spesso dicevamo, almeno io lo scrivevo spesso, che il Milan aveva un gioco e l'Inter i giocatori, e ha ribaltato, adesso l'Inter ha un gioco, ha fatto cose semplici, Spalletti, ma spesso le rivoluzioni migliori nascono proprio dalle idee semplici. Avendo due ali forti che sono la vera anima di questa squadra, quindi Candreva, Peris, gli ha dato già un'ossatura con una difesa solida, e quindi da lì poi ha costruito il resto, ravanando spesso a centrocampo dove aveva i dubbi maggiori, e li ha risolti mettendo i due ragazzoni lì, Pessino e Gagliardini, davanti alla difesa, un po' chiuso il cerchio, per cui ha fatto cose semplici, ma aveva anche minore scelta, ecco, rispetto, ritorniamo al mercato bulimico di Montella, che gli imponeva insomma scelte più difficili. Però ecco, l'errore forse di Montella è stato proprio quello di non ancorarsi a un'idea forte, cioè avesse comunque mantenuto l'idea dell'anno scorso, che più o meno gli ha dato un'identità, gli ha dato una quadratura, innestando gli acquisti nuove forse avrebbe fatto. Però è anche vero che puntando su Bonucci, rivoluzionando la difesa 3, ti portava al mercato da un'altra parte. Quindi grande però il lavoro di Spalletti, grande lavoro di Spalletti. Io mi permetto però di dire che lui dice non ho tempo, ma soprattutto non ha rincalzi. Questa è la grande differenza con quelli che gli stanno davanti. Bene. Cioè appunto, se quei due muscolari lì davanti, insomma, se ne fa male uno non sai chi mettere, e Candreva lì a destra si sta sfiancando e aspetta che Cancelo dimostri di essere qualcosa di utile, i terzini, i bassi anche lì hanno poche alternative, insomma è difficile reggere a questi livelli avendo così poche alternative rispetto alla Juve, ma anche rispetto alla Lazio, che ieri per esempio ha cominciato a mettere dentro Nani. Insomma, bravissimo Spalletti, ma se a gennaio non l'aiutano avrà il fiato corto. Difficile. Esatto, difficile, esatto. È chiaro che la mancanza delle coppe gli dà una grande mano da questo punto di vista, sì, sì. Però sono d'accordo, è sempre un po' appeso a questo filo, al raffreddore di Miranda che non deve mai succedere, alla squalifica, ecco, queste cose qui, insomma. Beh, è chiaro, è lì, insomma, l'organico è quello che è, il personale è quello che è, quindi ha ragione Gigi, cioè se non interviene, se non si fa qualcosa sul mercato, poi diventa difficile la primavera. Grazie Gigi. Grazie a voi, buona giornata. A presto, ciao, Gigi Garlando. Pierluigi, sei pronto per un salto a Genova? Sono prontissimo, mi fa molto piacere. Perché c'è il derby sabato sera, sì. E si arriva in condizioni opposte. C'è una Samp che sta volando, onestamente. Il balletto di Ferrero ieri dopo il gol della Sampdoria, te lo ricordi anche tu. Un Genoa disperatamente in zona retrocessione. Da che parte vuoi andare? Vediamo se indovini. Genova? Genoa? Rosso-blu? Scegli. Visto che siamo cattivi. Francesco Baccini, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Che bella voce allegra oggi. Come stai? Un giorno da ultimi posti, anche se siamo pure, se io riuscirei, abbiamo giocato bene. Effettivamente il Genoa ha tenuto il campo tutta la partita, ha avuto diverse occasioni che si è mangiata dei ricordi clamorosi, poi la palla ha fatto un tiro, ha fatto un gol, fine della partita. E devo dire che questo film ultimamente l'abbiamo visto spesso, noi l'abbiamo perso tutte per un gol di differenza, non abbiamo mai preso delle goleate, e sempre però, in maniera abbastanza rocambolesca, perché non so, con la Lazio abbiamo perso 3-2 con un passaggio di Gentiletti che ha lanciato Immobile in porta, o con l'Inter abbiamo perso 3 minuti dalla fine dopo aver in campo meritatamente meritato, cioè meritavamo almeno un pareggio a San Siro. Quindi è un momento veramente strano. E però la classifica dice 6, fra la squadra, se sia l'allenatore. L'allenatore è confermato oggi. Juric resta sulla panchina fino al derby, la notizia di oggi. Ma io credo che il derby sia l'ultima spiaggia per Juric. Sì, poi si cambia Juric, ma la squadra resta quella, Pierluigi. Francesco, fammi sentire cosa dice Pardo, che è un appassionato di derby di Genoa. A me la squadra, vorrei sentire lui. A me la squadra sembra sicuramente non di livello eccelso, ma insomma nettamente al di sopra di 5 o 6 squadre, quindi non dovrebbe in prospettiva rischiare, non so cosa ne pensi. Ma poi c'è tutta questa differenza, diciamo, tra Genoa e Sampdoria. A livello qualitativo Genoa non è da ultime tre posti, ecco. È un Genoa metà classifica magari dalla parte destra, però da una salvezza tranquilla a livello di qualità di giocatori. Poi non si capisce, non gli manca la cattiveria, non riescono mai a affondare, ma passiamo in vantaggio un sacco di volte e dopo pochi minuti siamo recuperati subito, come se avessero paura di vincere. Dov'è l'errore? Secondo me è una roba anche molto psicologica, ma, quando cominci a non vincere, ti abitui all'idea di non vincere. Quindi che si fa? E quindi ci vorrebbe un'iniezione di fiducia e anche un po' di fortuna, perché devo dire che il Genoa è una squadra abbastanza sfortunata. Non so, ieri nei primi minuti Rigoni si è mangiato un gol che lo facevo anch'io. Spal si è ritrovato un gol, francamente, che se ci riprova altre 190 volte non gli riusciva mai più un gol del genere. Oppure con Napoli abbiamo trovato un Mertens che ha fatto due numeri da fantacalcio. Devo dire che oltre al, come dire, al non giocare benissimo, siamo pure sfortunati. Sì, la fortuna aiuta gli audaci. La fortuna è chiaramente è un ingrediente fondamentale, perché se con l'Inter ricevamo il 90esimo come doveva essere, e chiaramente parlavi di un'altra squadra. No, è ovvio, però quella meretrice guarda da un'altra parte, magari dalla parte blu cerchiata in questo momento. Alla Samba tutto bene. Loro sono come la Juventus, hanno una fortuna orribile. Ah, sono come la Juventus, hanno una fortuna orribile. Sono la Juventus di provincia, la Sampdoria. La Juventus, una fortuna orrenda. Ti piace Pardo questa? Vabbè, questa è un po' di parte come affermazione, dai. Ma no, è vero. Io sono genuano, mancherebbe altro, però la Sampdoria veramente a volte c'è una fortuna che non vede mai quella roba lì. Noi siamo proprio il paperino del calcio, riusciamo a complicarci una partita da soli sul 3-0. Sì, adesso vediamo il derby e poi facciamo i conti. Ciao Francesco, grazie. Ciao. Pier, abbiamo la borsa, torniamo e sarà qualche ascoltatore in attesa. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da La Trap, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Convocati. Convocati che rispondono come al solito sono tantissimi, li ringrazio. Loro sono tanti, il tempo è poco. 800240024, comunque rimane un contatto sempre attivo. Giuseppe, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao. Allora, sono quello del podcast, quello che vi ascolta, che viene a sapere i risultati 3 giorni dopo, che vi ascolto mattina presto quando vado a correre. Ok. Volevo chiedere a Pierluigi se lui domani sera... A che giornata sei rimasto, scusa? No, no, no, sono aggiornato. Ah, va bene. Sono in linea, quindi sono a posto, siamo allineati. La prossima volta riceverò il risultato una settimana a seguire. È piacevole comunque ascoltarvi anche in podcast. Volevo dirti, volevo chiedere a Pierluigi se fa lui la telecronaca domani della Juve. No, della Roma. Ma Pierluigi è sbagliato questo, devi parlare con chi fa la Juve, per piacere, non va bene. Va bene, proviamo, ci organizziamo. Bene. Poi ho due cose velocissime. La prima, avevate invitato spesso, 2 anni fa, però l'anno scorso non l'ho mai sentito, quel giornalista, cioè quel vostro amico spiegatato juventino, di una presunzione meravigliosa per noi juventini. Chi è? Che diceva che si vinceva sicuramente, che avremmo vinto senza problemi, che superavamo l'anno che la Juve non riusciva a recuperare i punti, che aveva perso le prime giornate. Mi scusano, non l'ho più sentito. Ma Giuliani? Dici? Probabilmente Giuliani, sì. Ma ha incarichi istituzionali a Juventus TV, è difficile recuperare. Incarichi istituzionali, Parile. Presidente del Consiglio. Allora, un secondo di calcio, poi vi lascio la vostra trasmissione. Allora, un Inter concreta, una Roma, una Lazio altrettanto bella, ci ha battuti in casa, è stata una bella partita, un Napoli meraviglioso, perché il Napoli gioca in una maniera meravigliosa, però signori, quando io vedo al 96esimo, al 92esimo, 91esimo di Milan-Juve, Allegri, che sbraita, che urla, che se la giacca ce l'abbiamo addosso perché l'impermeabile è in spogliatoio, fortunatamente, che si incazza perché la palla non è tenuta in attenzione. Ecco, io non voglio fare il fenomeno, ma ho la sensazione che c'è qualcosa in più. Ecco, volevo dire questo. Forse non siete tutti d'accordo, ma qualcosa in più cosa vuol dire, Giuseppe? Non ho capito. La Juve, cioè ho la sensazione che la Juve, rispetto a quello che sta recuperando a livello di giocatori, per la mentalità, ho visto una Juve di un cinico sabato che mi faceva. Quindi va bene, non ho capito, va bene o non va bene? No, va benissimo. Rispetto alle altre 4 squadre. E spero che riusciamo a chiudere, anche se è un po' monotono, il 7° anno. Vabbè, grazie a lei. Beh, diverso da incarico istituzionale non mi è venuto per Luigi. Era bellissima. Guarda, io penso che la Juve sia molto forte. Io credo che la novità rispetto al passato, lo ripeto come un disco rotto, è che sono cresciute le altre, in particolar modo il Napoli, non certo che la Juve si sia indebolita. Io non penso che si sia indebolita, e basta guardare i numeri del campionato, le classifiche a confronto, ti rendi conto che non è così, è in crescita. Io ho rivisto un grande Higuain l'altra sera, però il Napoli una partita come quella di ieri, per dirti, avrebbe rischiato molto di più un anno fa, qualche inciampo ce l'avrebbe avuto sicuramente sulla sua strada. Quindi la sfida, ripeto, è bellissima, poi magari sono delle partite noiose perché sono chiuse, ma la sfida fra quelle 5 è meravigliosa. Jacopo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Volevo fare un saluto veloce a Pardo e non vedo l'ora di leggere il suo ultimo lavoro. Grazie. Vabbè, detto questo, volevo semplicemente agganciarmi a quello che avete detto prima su Montella, che secondo me, da juventino, quindi da avversario, ho avuto l'impressione che non avesse in mano la situazione neanche sabato, perché tu perdi, togli un centrocampista per mettere Antonelli, che è vero che forse ha una spinta maggiore in fascia, ma non mi sembra una lettura molto lucida della partita. Cioè, o meglio, tu vuoi provare Al di là dei singoli episodi, Pardo, che ha commentato quella gara, può confermare, al di là dei singoli episodi, è il disegno complessivo che secondo me manca. Sì. No, al di là del singolo cambio, che si può discutere oppure no. Assolutamente. È la confusione che c'è secondo me nella testa dei giocatori, e anche i cambi di modulo, i cambi di interpreti, insomma non lo so, cioè alla fine poi bisogna essere un po' anche semplici, no? Anche un po' netti. Bravo, nella vita. Bravo, le cose vanno o non vanno e non stanno andando, cioè non è che c'è molto da discutere. No, ma poi hai usato tu la parola chiave, che io ho mutuato da te, anche se hai copyright, è semplificazione. Dovrebbe semplificare il suo lavoro. Adesso ti saluto e chiacchiero di Formula 1, però c'è Leo Turrini che ti vorrebbe dire qualcosa, credo. Certo. Chi è il maestro Pardo? Dottor Turini, è proprio lui? Maestro Pardo, ho sentito parlare da un ascoltatore che sta per uscire un suo nuovo capolavoro. Io È uscito. Dove sei? Sei come Raikkonen sulla Pelo Gormana, è uscito 2 settimane fa. Sì, è un romanzo, è un romanzo vero e proprio, è un romanzo vero e proprio. Hai capito? Leo? Doveva arrivare questo? È impazzito? Leo Torrini? Dove sei? Niente, non si è più riavuto. Non si è riavuto dalla notizia. Non si è più ripreso Turrini da questa notizia. Ah, è uscito. Ma sai, lui lì in coda sulla Piero Cormano perennemente, guarda che è dura. È chiaro. Tenersi il libro in macchina e magari trova qualcosa da fare, oltre che chiacchierare con quelli che come lui sono in coda sulla Piero Cormano dietro a Raikkonen. Ciao Pierluigi. Ciao. Allora, adesso andiamo, vediamo di recuperare Turrini, perché insomma Hamilton ieri ha vinto il quarto mondiale, non è una cosa banale, ragazzi. Come lui, Prost e Vettel, Senna ne ha 23, insomma, stiamo parlando di un grande, almeno così dicono i numeri, della storia della Formula 1. Sentiamo. Pennella come un Raffaello, entra, vai e chiudila, e spalanca felice. Andiamo a Valencia. Desmodovice e andiamo a Valencia. Andiamo a Valencia. A mangiare la paella pitturata di rosso. Dovice, doppietta Ducati, Dovizioso Lorenzo, davanti a Zarco. Io ero ben concentrato a portare a casa i 25 punti in tutte le condizioni che potevamo trovare, e sto weekend abbiamo lavorato da Dio. Lewis Hamilton vince il mondiale di Formula 1 2017 per la quarta volta, vince il mondiale, lo ricordiamo ancora una volta, come Alain Prost, come Sebastian Vettel. Congratulations Lewis, champion of the world. Lewis, this is Toto. Not the race you wanted, but who cares? Congratulations, 4-time world champion. Nicky Lewis, thank you. 4-time, thank you. Allora, ieri nei motori è stato, direi, il giorno dei verdetti. Uno ufficiale, Hamilton, campione del mondo dopo una pazza corsa in Messico. L'altro, ufficioso, perché ieri ci siamo goduti di nuovo Dovizioso in Malesia, però il quarto posto di Marquez lo porta a 21 punti alla vigilia della gara di casa sua, cioè a Valencia. Non vedo grandissime chance per il Dovi, ma parliamo di Formula 1. Se Turrini si è ripreso, Leo? Sì, sono qui, sono in coda sulla Piero Cormano col libro di Pardo. Sì, no, mi stava chiedendo una signora, c'è un libro di ricette quello di Pardo? No, signora, no, pare che sia un romanzo. No. Sì, lo so che da vedere televisione bello rotto, no, non è dire, è un romanzo. Siamo tutti in coda qui, cosa vuoi che ti dica? Senti, lo saluti tu Vito Antonio Liuzzi? Sì. E gli fai una domanda? Beh, allora intanto lo saluto con grande affetto, perché Vito Antonio avrebbe meritato di più in Formula 1. Io ho avuto il piacere di vederlo guidare dal vivo. Niente, volevo chiedergli, secondo lui, chi arriverà prima al quinto titolo tra Vettel e Hamilton, dato che adesso stanno alla pari accanto a Prost in quella classifica lì, no? Dopo, insomma, chi è che si fa dare un 5, ecco, l'anno prossimo? Verstappen, rispondo io, ma sentiamoli. Intanto buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao. Domanda tendenziosa, perdonalo. No, non c'è problema. Grazie per le belle parole, che condivido, però va bene, altre cose. Comunque niente, per quanto riguarda il quinto titolo, guarda, dopo i passi che ha fatto la passata stagione la Ferrari rispetto dal 2016 al 2017, penso che si continuano con la stessa voglia e determinazione, penso che Vettel ha tante chance per poter vincere il campionato 2018. Quest'anno sono stati lì molto vicini, anche se dall'inizio io ho pronosticato la Mercedes per il titolo e un Lewis Hamilton per il titolo, però devo dire che la Ferrari ha fatto grandissimi passi avanti e secondo me l'anno prossimo se la gioca alla grande. Ma infatti secondo me il voto alla stagione a Ferrari è assolutamente positivo, perché alzi la mano chi si aspettava una Ferrari in corsa ancora, anche se ipoteticamente, per il titolo a quest'ora, cioè alla fine del mondiale. Ragazzi, vi chiedo un attimo di pazienza perché c'è la rubrica preferita di Leo Turrini, cioè il traffico. Bene, allora siamo tutti convocati. ma proprio tutti. Tutti convocati. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... Tutti convocati. Dunque, come avete sentito, la Pero Cormano non è citata perché da lì c'è Leo Turrini, il nostro inviato fisso. Qui siamo sempre in coda, tra l'altro, sì, scusa, c'è la signora, stai sulla macchina di fianco. Sì, è vero, signora. No, mi sta dicendo che Kevin Spacey ha fatto outing, ha dichiarato di essere gay. No, Genta non lo so, signora, no, non abbiamo mai parlato di questo. No, Genta, no, dice di no, dice di no. Comunque volevo... Stavamo parlando con gli Ussi, qui il pubblico della Pero Cormano mi distrae. 2018 fa rima con Binotto, inteso come Mattia, il direttore tecnico della Ferrari. Prima Vito Antonio ha detto una cosa giustissima, e anche tu, la Ferrari rispetto alle premesse ha fatto una buonissima stagione. Non cambiano le regole per l'anno prossimo, tecnicamente rimarrà tutto uguale, tranne l'introduzione della halo, insomma la protezione per la testa dei piloti, quindi è evidente che è fondamentale riuscire a sviluppare meglio il prodotto, a affinarlo, perfezionarlo. Quest'anno, come ha detto anche Marchionne ieri al Mugello, la Ferrari ha fatto anche degli errori, eh? Allora sei lì e adesso devi fare il salto di qualità definitivo. Vito Antonio, che ne pensi? Sì, confermo pienamente, perché quest'anno la Ferrari ha avuto questi problemi di affidabilità che nell'ultima parte di stagione gli hanno fatto definitivamente perdere il mondiale, e quindi se l'anno prossimo riescono a trovare, diciamo, una quadra sotto la parte della power unit motoristica per rendere la macchina affidabile, penso che saranno molto molto competitivi, perché la macchina c'è. Non penso che l'anno prossimo la Mercedes possa tirare fuori il coniglio dal cilindro a livello aerodinamico e fare qualcosa di stratosferico, perché l'ha fatto già per 4 anni, quindi ci sono dei cicli nello sviluppo di ogni macchina, quindi penso che Mercedes sia quasi arrivato, non è detto, però possa essere quasi arrivato a fine di questo ciclo. Allora, parliamo di un attimo di piloti. Qual è il pilota più forte con cui sei sceso in pista, secondo te, Vito Antonio? Guarda, io ho iniziato nel 2005, ho avuto la fortuna di correre contro il grandissimo Schumacher, Alonso, Raikkonen, c'erano tutti, quindi il più forte ovviamente per me rimane sempre Michael. Michael, ok, allora io adesso leggo, parliamo di blasfemia, no? Leggo una domanda sul sito della Gazzetta, per esempio: Hamilton vale Ayrton Senna? I numeri dicono di sì, oppure no, è facile con la Mercedes, eccetera, eccetera. È chiaro che 4 titoli di Lewis Hamilton, abbiamo detto, come Prost e come Vettel, un titolo in più di Ayrton Senna. Qual è il valore assoluto, secondo voi, di questo pilota, Vito Antonio? Sicuramente Lewis è un grandissimo mastino, un grandissimo talento e merita questi mondiali. Paragonarlo a Senna, penso che, come dicevi prima tu, sia un po' una blasfemia, perché sono periodi totalmente diversi della storia. Io penso, come puoi paragonare Pelé Ronaldo. Vero, bravo. Sono due situazioni completamente diverse, le macchine sono diverse, lo stile di guida è diverso, bisogna utilizzare la strategia in maniera diversa, è tutto un mondo diverso, quindi non penso che possano essere paragonabili questi due talenti. Sicuramente è il talento del momento, è quello che fa la differenza in pista, che l'ha fatta negli ultimi anni e che ha dimostrato che quest'anno, se ci sta con la testa, come magari non c'è stato completamente nella passata stagione quando ha permesso a Rosberg di vincere il titolo, quando lui c'è a pieno ritmo, diciamo, fisicamente e mentalmente, è imbattibile. Grazie Vito Antonio. Grazie Vito Antonio Liuzzi. E io chiudo con il mio amico Leo Turrini. Allora, di cosa parliamo? Quest'ultimo tema mi interessa la tua opinione, perché a me sembra il confine della blasfemia. Io sono d'accordo che i paragoni tra epoche distinte e distanti è meglio lasciarli stare. Sicuramente quello del 2017, aggiungo purtroppo da ferrarista, è stato il miglior Hamilton di sempre. Lui credo che volesse dimostrare qualche cosa al fantasma shakespeariano di Nico Rosberg, perché aver perso un campionato del mondo dopo averne 22 contro un compagno di squadra è stato un'onta, una macchia, capito? Quest'anno abbiamo visto un Hamilton perfetto, sinceramente io non ricordo nell'arco del campionato nemmeno un suo errore, quindi tanto di cappello. Dopodiché Vettel ha fatto tutto quello che poteva, ci ha messo anche del suo per cercare di restare lì più a lungo possibile, perché comunque, cioè, Hamilton è un campione, ma con la Mercedes ha fatto molte più pole position, vuol dire che la macchina aveva ancora qualche cosa in più, rispetto alla rossa. Adesso si riparte da 4 a 4, ma si taglia sullo sfondo questo moccioso diabolico, perché insomma, ragazzi, c'è poco da dire. Senti, ma ieri la carambola iniziale di chi, è la colpa? No, non ha colpa nessuno, secondo me ieri Verstappen, no, perché tutti, il popolo ferrarista si è scagliato contro il moccioso. No, guarda, anche ieri Verstappen al via fa qualche cosa di straordinario, cioè lui ha onestamente un talento purissimo, accompagnato da una spregiudicatezza illimitata. Certo, diciamo che in questa fase se lo può permettere perché non sta correndo per il campionato, no? Uh-huh. E quindi se anche dovesse incappare in un incidente non compromette nulla, ma questo è un fenomeno. Cioè, io, siccome Verstappen, se fa come Raikkonen e Alonso nel 2035, sarà ancora in pista, no? E Genta sarà ancora in onda, e Pardo avrà già pubblicato l'ottavo libro di ricette, io invece non ci sarò più. Racconterete voi. Chi lo sa? No, racconterete voi la grandezza di questo olandese volante. Tra l'altro poi io dico una cosa a beneficio di tutti i ferraristi, proprio perché ha davanti a sé una carriera lunghissima. Guardate che questo un giorno o l'altro a Maranello arriva. Ma sai, quindi, che lo so. Quindi sai, punto, che lo so. A quel punto, voglio dire, in Italia e anche fuori, i ferraristi impazziranno tutti per lui. Adesso invece gli sta cordialmente sui maroni. Sì, lo, ma perché sai, ha un tu carattere, sai, quando parla, onestamente, più ci rimane un po' così, perché Verstappen è talmente geniale al volante quanto sciocco nelle esternazioni, anche le cose che aveva detto dopo il Gran Premio del Texas, ricordiamo, erano assurde. Forse è un po' la stessa faccia di una medaglia, no? Se uno non è sopra le righe, forse non è Verstappen. Poi adesso sinceramente, cioè, non ha nemmeno 20 anni. Mio censore De Luca, sì, mi fa segno di chiudere. Beh, allora, mi ghigliottinano il microfono. Luca, con un grande abbraccio, e raccomando a tutti ovviamente questo libro di ricette di Pardo, che merita la vostra attenzione. Io sono qui che penso a un romanzo, ma Hemingway cosa dirà nel paradiso degli scrittori? Hemingway. Va bene, ragazzi, vi abbraccio, ciao, tutti, ciao, vi voglio dottor bene. Non sai quanto ti vogliamo bene noi, tutti noi, di tutti i convocati. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Veronato in regia. Ragazzi, appuntamento domani alle 14. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!